Sul medesimo numero delle scienze, questo di febbraio 93, colgo due confronti in due articoli diversi, confronti in cui un termine di questo confronto rimane lo stesso, l'uomo. Il primo confronto lo fa Pietro Prini, filosofo, che dice: se a un calcolatore elettronico chiedete perché il suo costruttore ha deciso di costruirlo, non vi può rispondere e si arresta. Oibò, direte voi, prima ancora di chiedervi se sarà proprio vero, beh, anche un uomo, maledizione, se gli fai la stessa domanda, non è che brilli per la risposta, eh? E infatti, fin qui ci arriva anche il filosofo, che, tuttavia, non è filosofo mica per niente, e nel tentativo di metterci una pezza, fa uno sbrego più grosso. E infatti continua: anche l'uomo non sa rispondere a questa domanda, ma in modo diverso. Perché? Perché il cosiddetto cervello elettronico resta muto, mentre la mente umana sta in silenzio. E qui ovviamente le cose si sono fatte dannatamente complicate o maledettamente semplici, perché per me che ascolto, se l'interlocutore rimane muto, o rimane in silenzio, al di là dei giochini di parole, è perfettamente lo stesso. Se gli avessi chiesto che ore sono, continuerei a ignorarlo. Il secondo confronto è quello posto da due antropologi in un articolo dedicato all'attività mentale e comunicazione nelle scimmie. Due antropologi rispondono al nome di Seyfert e Lasceni. Dice la coppia di scienziati che si è osservato che i primati non umani, come i cercopitechi, comunicano tra loro con sistemi per certi aspetti simili al linguaggio umano. E fin qui diciamo che non si fanno male, nel senso che affermano quella che ormai è un'ovvietà per tutti, tranne che per Papa Wojtyla, Noam Chomsky e pochi altri eletti. Ci sono fior di ricerche, come quelle sull'acquisizione di un linguaggio con tutta la sua bella grammatica tramite l'uso di un computer da parte dello scimpanzé Lana, ricerche condotte almeno 15 anni fa. Ci sono tutto questo fior di ricerche che sta a dimostrarlo. Semantica e sintassi, ci dispiace per i fratelli umani gonfi di sé, non costituiscono una nostra esclusiva capacità. Anzi, a ben vedere, non solo possono comunicare tra loro, ma possono comunicare anche con noi e noi con loro. Fin qui va bene. E tuttavia, ai due valenti scienziati la cosa deve seccare non poco, perché si affrettano a trovare la differenza che faccia loro dormire sonni tranquilli. E allora? Si è osservato che i primati non umani comunicano tra loro con sistemi per certi aspetti simili al linguaggio umano, ma, sembra però che non siano in grado di riconoscere gli stati mentali altrui. Come se noi, invece, la sapessimo lunga sugli stati mentali altrui. Beh, sarebbero di cambiarli questi confronti. Allora, tipo, un giorno una scimmia incontra un filosofo e gli chiede che mestiere fa, e quello non risponde niente. Allora la scimmia annota: questo qui o è muto o sta in silenzio. Oppure, un giorno un computer incontra due uomini e non li molla più, se li studia notte e giorno, e dopo un po' annota: parlano, ma nessuno dei due sembra concedere una mente all'altro. Ciascuno si comporta come se ce l'avesse solo lui. Niente da fare. Ha ragione Chomsky Piteco. Trattasi di esseri inferiori.